Ditemi un po', durante la vostra giornata tipo, con quanti robot e con quante persone umane avete a che fare? Perché vi faccio questa domanda? Perché io mi sono reso conto che anche se sappiamo benissimo che le persone non sono dei robot, beh, a volte le trattiamo proprio da robot. Dite di no? A me succede spessissimo. Vi faccio qualche esempio. Ad esempio, quando dico a quella persona, ma possibile? Ma te l'ho già detto 1000 volte. Eh sì, perché ha un robot, se tu gli spieghi quella cosa, gliela spieghi bene, non c'è pericolo che lui non la faccia proprio come gliel'hai detto. E non c'è neanche pericolo che si svegli magari con il piede sbagliato e che magari ti mandi a quel paese. Il robot fa quello che gli chiedi, ma la persona mica sempre fa così. Mica è detto che riuscirà a farla così o che vorrà farla così. Al mio robot domestico, ad esempio, potrei dire: allora, muoviti, forza, avanti, cosa aspetti? E il mio robot domestico l'avrei proprio programmato di modo che in qualunque modo gli chiedo quella cosa, lui la fa e basta, senza fiatare. Gli posso anche tirare un calcio e lui magari mi fa un sorriso. E invece, se provi a tirare un calcio ad un alveare, mica è detto che ti venga giù del miele. Anzi, magari ti rimedi anche una bella puntura di ape. E così quella volta quella persona, quella cosa gliel'ho detta proprio in male modo. Accidenti, mi ci ha proprio mandato. E un'altra volta facevo quel ragionamento a quel robot. E quel robot assecondava quello che gli dicevo, perché il ragionamento non faceva una piega, era logico. 2 più 2 fa 4, sempre e comunque. E invece quell'essere umano, quell'altra volta, non sono proprio riuscito a convincerlo. Anche se il mio ragionamento di per sé non faceva una piega. Ma forse in quel momento mi ero dimenticato che ai robot si parla di logica, agli esseri umani invece mica si parla soltanto alla loro testa, si parla anche al loro cuore, a volte anche alla loro pancia, perché a volte comanda quella e bisogna tenerne conto. Il robot non arriva mai in ritardo, se deve arrivare in quel posto a quell'ora partirà all'orario giusto. E l'essere umano è come se a volte arriva in ritardo. Il robot non si stanca mai. L'essere umano a volte invece appena si sveglia è già stanco. E poi c'è anche il robot che sono io. Eh sì, perché qualche volta ho provato anche a trattare me stesso da robot. Il robot non ha bisogno né di riposarsi, né di dormire, né di svagarsi. E così quella volta quel robot che sono io ha rischiato di rompersi. Ma che strano. Oppure no, perché anch'io sono un essere umano. E poi il robot non dice bugie e non finge, invece l'essere umano a volte accusa anche se ha torto marcio, ha paura anche se non c'è proprio niente da avere paura, e sogna e progetta, e poi magari non fa niente per mettere in pratica e realizzare il suo sogno. Il robot non soffre, l'essere umano è come se soffre. Insomma, con i robot non avrò mai sorprese. E invece la comunicazione, che è un fatto umano, profondamente umano, sarà sempre qualcosa di diverso. Non ci sarà mai una regola che vale al 100%. Ci sarà sempre qualcosa che potrà spaventarmi, destabilizzarmi, oppure stupirmi. Come dice Jovanotti, noi siamo l'elemento umano della macchina e siamo liberi sotto alle nuvole. Per questo la comunicazione umana è viva, vitale, problematica, mai uguale a se stessa. Per questo comunicare con le persone umane sarà sempre una sorpresa, come sarà sempre una sorpresa a tuo figlio, il tuo partner, tuo marito, tua moglie, che a volte ti fanno ridere, a volte invece ti fanno piangere, come il tuo amico che ti abbraccia, come lo sconosciuto che ti incontra e ti sorride anche senza motivo. Quindi, la prossima volta che devi comunicare con una persona, qualsiasi persona, ricordati, non è un robot, è un essere umano.